Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Durerà 8 giorni l'attesa per conoscere gli avversari di Inter, Juventus e Roma negli ottavi di finale di Coppa, visto che il sorteggio è fissato per il prossimo venerdì 19 dicembre. Per ora dunque ci dobbiamo accontentare delle rispettive griglie dei possibili avversari, che comunque è già un bel vedere dal punto di vista del prestigio. Allora, Roma e Juventus possono incontrare Arsenal, Villarreal, Atletico Madrid, Lione e Sporting Lisbona, e poi rispettivamente la Roma, il Real Madrid e la Juventus, il Chelsea, e cioè l'avversaria che non hanno avuto nel girone da loro vinto. Juventus e Roma, ricordo, hanno vinto il loro girone. L'Inter invece, dovendo evitare l'altra squadra qualificata nel girone e non potendo incontrare due italiane, perché negli ottavi non può accadere, l'Inter dovrà vedersela con una tra Manchester United, Barcellona, Liverpool, Bayern e Porto. Questi i dilemmi che le tre squadre italiane e tutte le altre europee si porteranno dietro per la prossima settimana. Il bilancio della fase a gironi di Champions League ha portato, come sempre, i due paesi favoriti a fare l'amplen, no, come sempre, come spesso accade, e dunque l'Inghilterra ha qualificato tutte e quattro le sue rappresentanti, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United, la Spagna altrettanto, con Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Villarreal. L'Italia ha perso la Fiorentina e ha qualificato Inter, Juventus e Roma. Due squadre portoghesi, ed è la prima volta nella storia della Champions League, si tratta del Porto e dello Sporting Lisbona, e poi una rappresentanza ciascuno per la Germania col Bayern Monaco, la Francia con il Lione e la Grecia con il Panathinaikos. Notizia di giornata di casa nostra: il rinnovo del contratto di Walter Zenga per la panchina del Catania fino all'estate del 2010, annunciato poco fa dalla società catanese. Dato che abbiamo un argomento forte tra poco, suggerirei di ascoltare subito, a modo di riassunto serale, due commenti delle partite di ieri sera. Il primo al pareggio casalingo della Juventus col Bate Borisov è quello di Le Grottaglie. Visto la posta in palio, a noi interessava di più il punto. Ma nello stesso tempo abbiamo cercato di vincerlo, poi abbiamo avuto un rigore sbagliato, altre due o tre palle a un palo, due o tre palle limpide per far gol. Abbiamo cercato di non rischiare, di rischiare il meno possibile, perché queste partite, quando non sono grandissime partite sulla carta, a livello psicologico bisogna stare molto attenti, e questo fa tanto. Prova di maturità, perché ci serviva un punto e l'abbiamo portato a casa. Ricordo che Le Grottaglie non potrà giocare domenica sera in Juventus-Milan perché è squalificato. La Fiorentina ce l'ha fatta a qualificarsi per l'UEFA dopo la battaglia di Bucarest, perché non c'è dubbio che la Steaua l'abbia messa pesantemente sul piano fisico. Sentiamo Prandelli. Qualificazione, ci tenevamo molto e quindi i ragazzi hanno, soprattutto nel secondo tempo, disputato una prestazione importante. Adesso stiamo avendo un po' più di fortuna rispetto a qualche settimana fa. Io sono sempre più convinto che questa squadra ha grandi margini di miglioramento, perché c'è convinzione, perché c'è la voglia di crescere, c'è la voglia di essere squadra, e nelle ultime partite siamo stati squadra. Cambiamo argomento e affrontiamone uno che è sempre d'attualità, ma è tornato in particolare a esserlo con il grave infortunio patito da Gattuso. Allora do innanzitutto il bentornato al dottor Piero Volpi. Buongiorno Piero. Buongiorno a voi, ciao Gigi. Sapete che Piero Volpi è medico traumatologo, è un ex calciatore, è stato medico sociale dell'Inter, è consulente dell'Associazione Calciatori, del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dell'UEFA, insomma ha tutti i titoli per parlare a 360 gradi di questo genere di problemi. Ho preparato una serie di domande in ordine sparso. Io partirei da questa: perché, lo so che è generica, ma perché oggi tanti infortuni? Cioè, perché una squadra di, diciamo, mediamente 22 elementi ne ha di regola 5, 6, 8 indisponibili? Non è una percentuale strepitosamente più alta di un tempo? Assolutamente, ma direi che fra le tante cose che si possono dire, perché le cause possono essere molteplici, ce ne sono tre, secondo me, in questo momento che spiccano. classificano per incidenza di causalità e sono: uno, la fisicità dei giocatori, cioè non c'è dubbio che oggi noi abbiamo giocatori molto più fisici, ma direi atleti più fisici, ma questo vale per il calcio, come ho sempre detto, ma anche per altri sport. Per le altre discipline. Per altre discipline. Mm. Primo punto, quindi è come, facendo un esempio molto semplice, tu alzi la cilindrata del motore della tua macchina e quindi eroghi delle potenze maggiori su strutture, il muscolo sale di potenza, ma strutture come i tendini, i menischi, le cartilagini non seguono questo andamento e quindi rimangono, diciamo, più deboli alle sollecitazioni più intense e più estreme. Seguo l'immagine, scusami, e dico che il telaio strutturale della persona, prima ancora che dell'atleta, non è in grado di reggere quei cavalli. Esattamente, cioè, quindi la fisicità, che porta ovviamente a anche, diciamo, delle espressioni proprio gestuali molto potenti, molto forti, che sono anche dal punto di vista della gestualità molto belle, però hanno questo contraltare, cioè quello di aumentare l'incidenza e il rischio lesivo. Hanno un prezzo, punto. E questo è il primo. Il secondo? Secondo punto, la densità delle gare, delle attività, cioè ci sono oggi, si discute molto di questo in tutte le discipline, ma il calcio forse è l'esempio migliore, in cui tu hai dei momenti in cui giochi 7-8 partite nel fazzoletto di 15-20 giorni, sì. Ovviamente i cosiddetti calendari, che ovviamente aprono il discorso a 360 gradi, non solo sulle densità delle partite, ma sulle preparazioni, si fa una preparazione a luglio oggi o fine giugno, primi di luglio, e dopo 3 giorni si va a fare un torneo, cioè non c'è più la possibilità di creare quella capacità, diciamo, strutturale e di preparazione che consente poi al giocatore di, come dire, di avere poi dopo una riserva nel tempo, e quindi tu fai preparazioni sempre più affrettate, hai impegni agonistici sempre più esasperati, e stiamo studiando, e ne viene fuori sempre più in maniera pressante questo dato, un rapporto fra gara e allenamento, cioè sembra che ci sia una correlazione, anzi c'è, ve lo posso anche dire, sì, fra il numero di allenamenti e le gare, cioè c'è un indice che testimonia che sotto certi livelli i rischi aumentano. Faccio un esempio: se tu, sì, giochi domenica e mercoledì, per chi sa, ovviamente segue le squadre di calcio, sa che il lunedì fai un allenamento di rifinitura, il mercoledì mattina stesso o il martedì pomeriggio fai un allenamento, diciamo, preparatorio alla partita, quindi non hai mezzo allenamento o un allenamento cosiddetto veramente allenante, e quindi esponi i giocatori che giocano in tempi così ravvicinati a maggior rischi lesivi. Tanto è vero che la conclusione finale di questo mio discorso è quello che il calcio è nato negli anni passati e secondo me continuerà ad essere un'attività per poter giocare, da giocarsi una volta ogni 7 giorni, con impegni così importanti. E questo è il secondo punto. Sì. Il terzo punto, sembra assurdo, ce lo siamo cercati noi in questi anni con l'aumento delle rose, cioè l'aumento sfrenato che oggi le rose dei giocatori sono di 28 unità, ma anche per squadre che giocano in Serie B o che non giocano le coppe. Se vai a vedere l'elenco dei tesserati, tu hai squadre che non partecipano alle coppe che hanno 26, 27, 28 giocatori. Sì, numeri. Questo che cosa porta? Porta a un esasperato agonismo nella ricerca degli atleti stessi, c'è, cioè, un'alta competitività interna per potersi guadagnare, non dico il posto da titolare, ma qui ci si guadagna anche il posto in panchina. Certo. E quindi questo porta ovviamente anche negli allenamenti, nelle partite, a dare il massimo fra tutti gli elementi, perché si è alzato il livello di competitività. Quando giocavo io, sarà stato un bene o sarà stato un male, ma quando giocava Mazzola, Rivera e tutti questi, praticamente tu sapevi dal giorno in cui facevi il ritiro che tu eri titolare di quella squadra, e a meno di catastrofiche prestazioni una dietro l'altra non venivi sostituito. Oggi sbagli, non dico una partita, ma un tempo, e c'è già 3 elementi che ti possono sostituire all'interno della squadra. È interessante questa riflessione. Questo guarda che ci stiamo studiando molto, è un altro elemento che porta anche dal punto di vista psicologico, perché il giocatore non è tranquillo, deve in pochi minuti, in mezzo tempo, dimostrare la sua bravura, e questo porta veramente ad alzare lo stress di prestazione, cioè quello di poter dare il massimo, e quindi rischi anche lì di andare oltre quello che è il tuo limite, e quindi la lesività. Non so se è chiaro questo. No, è molto chiaro, per chiarirlo anche di più. Non so se è convincente, perché dovrebbe essere anche convincente. Per me Beh sì, poi sentiremo cosa ne pensano gli ascoltatori, che come sempre interverranno anche oggi all'800 24 00 24. Mi sembrano argomenti e riflessioni poi da fare interessanti. Pensavo a questo come controdomanda. Credo di aver capito che questo eccesso di competitività interna non riguarda soltanto quella mezz'ora o quei tre quarti d'ora di ribalta in cui devi dare tutto quello che hai e quindi è questo stress ulteriore da prestazione, ma riguarda anche l'allenamento. Assolutamente, e questo spiega un motivo che è una critica che oggi viene fatta, cioè a dire, ma scusate, ma se questo è vero, quello che state dicendo, dovrebbe riguardare solo poche squadre, cioè quelle che fanno le coppe, quelle che danno giocatori a nazionale. Sì. Una squadra senza, come la Regina, faccio un esempio, che gioca solo domenicalmente, non dovrebbe avere tutti questi impegni, perché si gioca al massimo le 38 partite di campionato, più qualche partita di Coppa Italia. Questo invece, vedi che ci sono squadre anche che non hanno le coppe e che non danno un contributo di giocatori quantitativo importante alle nazionali, che hanno ugualmente una sfilza di infortunati. Questo può questa che ho detto, cioè questa alta competitività interna nel giocarsi il posto da titolare, il posto in panchina, comunque di avere sempre una pressione alle spalle se tu non hai un rendimento ottimale, che consente quindi a tutti i giocatori di giocarsi in settimana al massimo la possibilità di entrare nell'organico, è una considerazione che potrebbe spiegare e giustificare anche l'elevata incidenza dei traumi in squadre dove non c'è una partita ogni tre giorni, non so se ho reso l'idea, e quindi diventa difficile anche lì a dire come mai c'è, oltre alla fisicità come abbiamo detto, un'alta incidenza lesiva. Poi da ultimo accenno brevemente, si è letto in questi giorni relativamente al caso Gattuso, del campo di San Siro, dei campi. È chiaro che ci sono anche altri fattori che possono incidere e vanno dai terreni che non sono sicuramente i nostri, non brillano per uniformità e qualità del manto erboso, e anche se vogliamo le scarpe, anche se vogliamo altri fattori, però sicuramente sono i primi tre che ho detto quelli che secondo me hanno una grande preponderanza. Quando ci sono dei casi limite, abbiamo parlato di grandi e anche di piccole squadre, quando si arriva a casi limite, io sto pensando all'Inter per esempio dei primi mesi dello scorso anno, parlo di numeri di infortuni, parlo di Juventus quest'anno per esempio che ne ha avuto un numero altissimo, parlo come caso limite attuale forse del Real Madrid, che mi pare sia quota 25 infortuni di quelli dalle 2-3 settimane in su da agosto a oggi, che è un numero semplicemente pazzesco. Io non ti chiedo di chi è la colpa, perché ci hai già spiegato a tutto tondo il perché accadono queste cose, partendo proprio dalla preparazione estiva, dalla poca benzina nei muscoli, eccetera, eccetera. Però, stanti questi limiti e queste cose con cui devi fare i conti, poi evidentemente qualcuno commette l'errore, o sti motori di tirarli troppo, o di non tenerli in garage quando è, insomma, credo, no? Assolutamente, cioè oggi purtroppo devo dire che sia l'allenatore, il preparatore a cascata, no? L'allenatore, il preparatore atletico, il medico e quelli che costituiscono il team di una squadra hanno a che fare anche con situazioni esterne. La più importante è quella che ho detto prima, cioè tu non riesci a fare una preparazione sui 27, 28, 25 elementi che ti dà la società da gestire all'inizio dell'anno in modo uniforme, perché tu pensa che ogni squadra parte in ritiro con 10 elementi più la primavera, dopo 3 giorni arrivano altri 3, dopo altri 5 giorni arrivano quelli che hanno fatto la Coppa America, cioè praticamente tu non riesci mai a equilibrare tutta la rosa come avveniva una volta. Io mi ricordo che i ritiri nostri di una volta, ma te li ricordi anche tu perché il calcio l'hai seguito tantissimo, pensa alla squadra che vuoi del passato, partiva con quella con 17-18 elementi per il ritiro e tornava dopo 15-20 giorni con quegli elementi, non è che era una albergo che uno andava, uno tornava, uno veniva, cioè, e questo mette a dura prova, in grande difficoltà il preparatore, perché non dimentichiamoci che non è uno sport individuale, è comunque uno sport di gruppo, certo. E devi dare un equilibrio di condizione fisica a tutti, una preparazione a tutti, non puoi tu, quando dici ho 3 giorni di tempo per preparare questo giocatore, ma in 3 giorni non riesci a prepararlo, gli dai un'infarinatura, un abbozzo che dura una partita, due, ma poi dopo sei nei guai. Non c'è dubbio. Un tempo, stiamo parlando di infortuni col dottor Piero Volpi, l'infortunio era, adesso lo dico male, ma era comunque più corto. Correggimi se sbaglio, Piero, oggi che tu sia un artista come Van Nistelrooy oppure sia un capomastro come Gattuso, cioè da una parola in su sono 6 mesi. Sì, il problema è che questi gravi infortuni oggi, infortuni per esempio come quello del crociato anteriore, ripeto, per riportare gli atleti, perché non dimentichiamoci che rispetto a una volta oggi agli atleti che hanno anche qualità fisiche, intendo dire la potenza, la forza muscolare molto elevate, quindi ci metti mediamente di più. In più oggi hai anche degli elementi oggettivi che una volta un po' empiricamente nascondevi. Faccio un esempio, oggi hai l'ecografia, le risonanze che ti stadiano al millimetro per dire il tipo di lesione che tu puoi aver avuto per esempio in uno stiramento, e quindi questo ti consente anche di fare diagnosi più precise e di essere anche tra virgolette un po' più prudente. Una volta andavi un pochettino più sulla bravura del medico, sì, sull'esperienza del medico, e questo chiaramente magari non era così documentato in maniera fine, e quindi portava anche dei recuperi un pochettino più rapidi. Devo dire che però anche oggi ci sono dei recuperi abbastanza rapidi su certi tipi di patologie, però in generale dovrei risponderti che le conoscenze mediche sono migliorate, e queste fanno sì che ovviamente si cerchi almeno nel recupero di essere un momentino meno frettolosi, questo sì. Meno male. La sosta invernale, allora la domanda è qual è quella ideale, e poi c'è una controdomanda ma te la faccio subito incorporata perché precedo già le osservazioni degli ascoltatori, lo ricordo in altre edizioni invernali di questa trattazione di genere di argomenti, cioè la sosta invernale è la benvenuta, io so che tutti i medici, i preparatori, gli allenatori, tutto il mondo del calcio è mediterraneo e nettamente favorevole. Poi com'è che gli inglesi invece quando arriva Natale e Capodanno giocano il doppio e alla fine in Coppa ci vanno sempre loro? Come la spieghi scientificamente questa contraddizione? Sì, è una contraddizione che non è facile da spiegare. Partiamo da due considerazioni. Diciamo che si potrebbe anche giocare d'inverno come giocavamo noi una volta. Mm. Io voglio dire, ho giocato tante volte a Capodanno, volte alla vigilia di Natale, perché non c'era la sosta una volta. Ma cosa c'era? C'era un grande equilibrio nelle densità delle partite. Cioè è chiaro che se tu fai un ottobre-novembre, e ti do dei dati, ottobre-novembre è il picco di più alta incidenza dei traumi nel calcio professionistico, così sì, come lo è febbraio e marzo quando si riprendono le coppe e cominciano le partite ad avere, come dire, una validità per chi deve retrocedere o per chi deve vincere i campionati molto più importante, dove ti giochi ancora di più alla morte il risultato, sì, diciamo, no? Quindi ha questo picco di incidenza. Se tu non fai col calcio di oggi, cioè con il calcio di oggi a così alta intensità, una sosta mediamente lunga di 2, 3, 4 settimane, quello che adesso è di 3 settimane, rischi veramente di far scoppiare tutto il sistema. Cioè la risposta è che si potrebbe anche giocare a Natale, cioè nel periodo natalizio, ma però non devi portare una densità calcistica, una densità di partite così esasperata le 2, 3 o 4 settimane molto, prima. Molto chiaro. Hai capito? Perché allora tu spalmi e allora il calcio puoi giocarlo come giocano gli inglesi. Evidentemente sugli inglesi c'è da fare una considerazione molto semplice, che loro non hanno uno stress, una pressione, ma per cultura, non per, adesso non sto a dire se è meglio la loro o meglio la nostra, però tu sai benissimo, io ho giocato 2 o 3 partite con gli inglesi, siamo arrivati al campo 1 ora e mezza prima come fanno le squadre italiane, e loro sono arrivati 1/4 d'ora prima, sì, sono messi i pantaloncini e le scarpe e sono andati in campo. Questo ti dice come loro vivono la partita, l'ambiente, sì, la stampa, sì, i dirigenti e tutti, capisci? E questo è importante, perché vuol dire non mettere pressione su pressione. Ma infatti la risposta è questa, ed è suffragata da chi ha fatto esperienze lassù, Vialli, che tra l'altro poi ha scritto, sì, un libro molto interessante, molto documentato su 1000 tematiche, e direi in particolare su questa, Vialli l'ha raccontato con grande chiarezza, insomma, il calciatore inglese, la testa c'era sempre sgombra, sì, finita la partita, la birra, anzi le birre, la grande sudata, un po' di pipì in più evidentemente, e sono pronti per la partita dopo, senza... Ha fatto delle cose, adesso al di là di sì, ma io le ho vissute per la mia esperienza, te le posso raccontare. Questa che ti ho detto di arrivare al campo mezz'ora prima e non c'è ancora la squadra avversaria, mezz'ora sì. dall'inizio della partita, cioè non ci sono gli inglesi e gli italiani sono già lì che si riscaldano, per dirti, no? Sì, questa sì. l'ho vissuta io giocando, quindi è un'esperienza che ho vissuto nel torneo anglo-italiano quando giocammo con e vincemmo quell'anno, noi a mezz'ora dalla partita eravamo già lì che eravamo pronti per giocare, questi non erano ancora arrivati, i padroni di casa degli inglesi. Poi recentemente con l'Inter, quando sono stato alcune diverse volte in Inghilterra, fine della partita, famiglie a bere nel bar della, a mangiare i panini nel bar della, dello stadio insieme a tutti i tifosi, cioè cosa che in Italia non è proponibile, perché se hai perso la partita ti buttano giù dallo stadio. No, ma non cioè, solo, perché qui comincia il rito delle interviste, delle moviole, di quindi tutto il resto. Dire, questi sono solo due esempi per dire come vivono loro il fenomeno calcio. È chiaro che il giocatore è completamente sgombro e tu sai che, come abbiamo detto prima, non hai le tensioni, non hai le pressioni, e poi e se il calcio lo giochi con i ritmi e gli allenamenti giusti, io te l'ho detto, il calcio anche in Italia noi potremmo giocarlo così, ma devi togliere queste pressioni. Certo, via le sovrastrutture e si può tornare, si potrebbe tornare a giocare volendo anche in quei mesi, poi facendo i conti con i campi e con la neve, con tutto. Ecco, una cosa se mi consenti di dire, che ci siamo dimenticati di dire riguardo agli infortuni, è quella che tu hai detto adesso, che fa un po' contraltare anche al discorso delle preparazioni, è questa d'inverno, questa cattiva, purtroppo legata anche al business, io lo capisco, delle televisioni, di giocare in notturna su campi ghiacciati, su terreni soprattutto al nord. Ecco, anche questa non è un bel esempio, perché è chiaro che se tu tiri la coperta da una parte poi non ti puoi lamentare che i giocatori si fanno male, perché noi abbiamo nel recente passato abbiamo visto tante partite in posticipo, in anticipo serale, su campi che non erano assolutamente congrui per poter disputare una gara senza correre dei rischi oltre il normale. Piero, ci restano davvero ci resta poco tempo, io pensavo ne restasse di più, ma gli argomenti erano interessanti ed eventualmente questo discorso lo amplieremo e lo articoleremo meglio un'altra volta, però cominciamo almeno ad accennarlo in questi 2-3 minuti che ci restano, ed è il discorso drammatico della SLA. Io so che perché l'ho letto, perché sia l'associazione dei calciatori che la federazione lo hanno correttamente comunicato. Finalmente qualcosa sta cominciando a muoversi sul piano della ricerca, finalmente ci sono state iniziative, i giocatori si sono convinti a contribuire loro stessi per primi, proprio per finanziare la ricerca su questo flagello. Tu che stai un po' coordinando tutto quello che accade da questo punto di vista, ci puoi dire lo stato dell'arte? Ma guarda, il punto della situazione è questo, che ci sono state molte iniziative, si è mossa dalla federazione a tanti altri enti e si è creata una struttura scientifica in federazione che ovviamente ha già proprio elargito delle prime tranche di investimenti, di quattrini provenienti dalla famosa partita Italia-Montenegro, sì. A due centri, uno di Torino e uno di Roma, che proprio perché potessero completare i loro studi scientifici sulla SLA, completarli in termini di rapidità, cioè di celerità. E questa è sicuramente una cosa bella, quella di dare delle risorse, il calcio dà delle risorse per contribuire a capire se questa malattia ha comunque delle correlazioni certe, correlazioni vere con il calcio. E se ciò non fosse, sarebbe ugualmente lodevole, perché contribuisce ugualmente a studiare una malattia che può essere ovviamente che interessa tantissime persone e quindi che non sono magari sportivi e che ne possono trarre dei giovamenti. E questo è il primo punto assolutamente importante, quindi di schierarsi con partite di calcio, con risorse, con investimenti, con elargizioni anche da parte del nostro mondo per favorire la ricerca. Ma quello che l'ambizione che noi abbiamo e che io spero di riuscire a mettere in pratica è quella di instaurare una banca dati che servirebbe non solo per monitorare quel discorso degli infortuni che facevamo poc'anzi, sì, sui giocatori in attività, ma questi giocatori in attività non dimentichiamoci che fra 10 anni saranno gli ex giocatori, e quindi con dei dati che noi dovremmo monitorare anno dopo anno, riuscire ad avere, se sfortunatamente uno di questi giocatori dovesse incorrere in una malattia di questo tipo, avere tutta la cartella clinica, tutti i dati, tutte le possibilità da dare agli scienziati per capire, studiare e magari curare meglio la sua malattia. Questo è il progetto che mi sembra che ho presentato anche ai ricercatori scientifici della SLA e che sono rimasti entusiasti. Ho detto magari ci fosse una cosa di questo genere. Stiamo provando a metterla in piedi. E noi nella prossima occasione, magari col nuovo anno, ma certamente senza lasciar passare troppo tempo, torneremo a disturbarti proprio per vedere, per seguire poco alla volta l'aggiornamento della lotta a questo flagello. Grazie Piero. Grazie a voi, buon pomeriggio. Torniamo in onda, c'è un numero altissimo di messaggi e di richieste di intervento per l'argomento affrontato oggi insieme al dottor Volpi. Il dottor Volpi è tornato alle sue occupazioni, mi spiace che non possa rispondere ai vostri quesiti, insomma, cercherò indegnamente di farlo io, certamente non su un piano scientifico, ma può essere interessante anche semplicemente registrare le vostre riflessioni, quello che ne avete ricavato. Comincia Francesca da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini, senta, volevo fare i primi complimenti perché la trovo molto equilibrata e una condizione molto intelligente la sua conduzione. Grazie. Io non sono molto preparata nel calcio, però comunque lei mi ha fatto interessare molto questo argomento. No, niente, volevo soltanto dire una cosa che forse non c'entra molto con la puntata, è il fatto che l'Inter si è qualificata con il minor punteggio, diciamo possibile, 8 punti, invece in Italia sta facendo faville, non so perché questa differenza, forse anche a punto di vista diciamo medico c'è qualche diciamo collegamento. Grazie. Ma grazie a lei signora, ne aveva parlato a lungo ieri, ma è un argomento che non passa di attualità, perché è indubbio che c'è uno squilibrio netto, ma di rendimento prima ancora che di risultati, no? Tra queste due versioni. Ora, in altre stagioni, in altre circostanze, anche per altre squadre, lo squilibrio lo si poteva spiegare abbastanza facilmente, almeno in parte o in buona parte, con la differenza di avversari. In Europa mediamente trovi squadre assai più qualificate. Non è certamente il caso dell'Inter di quest'anno, che ha preso il girone di gran lunga più debole che fosse possibile, e oggettivamente il livello di Panathinaikos e Anorthosis non è paragonabile a quello del nostro campionato, non solo quello della Champions League. Il Werder Bremen stenta molto in Germania ed è nella seconda metà della classifica, dunque è davvero abbastanza inspiegabile. Non posso ricominciare con tutte le spiegazioni tentate ieri, se no ripetiamo la puntata, però la sua osservazione ci sta, e come. Da Udine ha chiamato Jacopo, buongiorno. Buongiorno, io ho stilato una mia personale statistica e vedendo che negli ultimi anni le prime hanno sempre affrontato, hanno affrontato seconde molto più forti, credo che le squadre italiane avrebbero dovuto concentrarsi prima sulla qualificazione, quindi passare il turno entro novembre, diciamo, e per poi concentrarsi sul campionato, anche perché visto che gli accoppiamenti come sono andati l'anno scorso non hanno portato tanto bene, e così anche negli anni passati, per esempio c'era Barcellona-Chelsea, è capitata 2 volte di fila agli ottavi, lo scorso anno Milan-Arsenal e Inter-Liverpool, la Juve ha preso pure il Liverpool 3 anni fa, quindi credo che sia una regola che vale poco, quella delle prime e delle seconde. Tutto qui. Ma difatti Jacopo, non è una regola, il vantaggio c'è ed è uno solo, quello di vincere il girone. Il vantaggio oggettivo è quello di giocare la partita in trasferta per prima e di avere il ritorno in casa. Questo è un vantaggio oggettivo da sempre, se non altro perché in caso di tempi supplementari, di calci di rigore, tutto questo avviene in casa tua e non in trasferta. Questo è l'unico vantaggio reale, insomma, che si ha. Poi è vero che qualche squadra invece preferisce giocarla prima in casa, insomma, ma in linea di massima questo è. Dopodiché il passato non conta, cioè conta soltanto le squadre che ci sono adesso. Ora, le rivali di Juventus e Roma, visto che si sta parlando delle 16 squadre attualmente all'avanguardia in Europa, no, non possono essere rivali scarse, evidentemente, no? Se parliamo di Arsenal, Villarreal, Atletico Madrid, Lione, Sporting Lisbona e Chelsea o Real Madrid, a seconda che tocchi o Juve o Roma. Però se vogliamo, io credo che Manchester, Barcellona, Liverpool, Bayern e Porto siano anche peggio. Poi va a gusti e i gusti, come sempre, non li si può discutere. Ha fatto bene la Fiorentina, scrive Ale, a fare silenzio stampa con la Rai. Neanche una volta quest'anno ha trasmesso le partite della Juventus in chiaro. Sono arrivate molte proteste da Firenze, per esempio qua una mail firmata Francesco, ma tante altre sono arrivate in questi giorni. In effetti, per esempio, questa mail ricorda che delle 6 partite trasmesse alla Rai nei gironi di Champions League non è mai stata trasmessa una partita della Fiorentina. Questo ascoltatore scrive: ora posso capire una TV privata, ma una TV pubblica, visto che anche i fiorentini pagano il canone, avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Io sono completamente d'accordo con lei, e quindi se la Fiorentina al sesto tentativo l'ha presa davvero male e ha fatto silenzio stampa con la Rai come ieri sera ha fatto, credo che avesse più di una ragione. Leonardo è in linea dalla provincia di Trapani, buongiorno. Buongiorno dottor Valentini. Dica. Allora, io intanto era una riflessione su quanto diceva il dottore Volpi, che appunto le rose sono sempre più ampie, però poi alla fine i campioni veri sono sempre un numero inferiore, e poi sono sempre quelli che hanno gli infortuni più gravi. Ecco, magari avere le rose ampie è utile per, come dire, per preservare i giocatori più forti in partite che contano un po' meno, tra virgolette, con tutto il rispetto. E il problema delle televisioni, che già da luglio si gioca per onore di contratto verso, non so, gli Emirati Arabi, eccetera, eccetera. Poi un'ultima cosa sulla Juve: secondo lei, recuperando Buffon e tutti gli altri che finora sono mancati, può avere speranze buone di arrivare in finale? Grazie. Secondo me no, Leonardo. Io credo che l'Europa che conta sia ancora un'altra cosa. Poi è ovvio che con i miglioramenti che potrei avere ritrovando i suoi uomini migliori, fermo restando che Manninger fin qui ne ha combinate poche, molto poche. Io credo che sia ancora un po' fuori portata attualmente questa Juventus, ma vedo che loro ci credono molto, e quindi il fatto di crederci è già sempre un buon punto di partenza. Lei diceva le televisioni che pretendono, ma no, guardi che l'ingordigia delle società sa che porta appunto a saltare in modo praticamente totale la preparazione estiva, e perché le televisioni possono anche proporre degli appuntamenti, ma in genere va al contrario, sono le società che si organizzano le loro brave partite, sai, triangolari, sa, quelle sfide meravigliose, epocali, no? In cui poi oltretutto finisce che ti organizzi la sfida con quella che poi incontrerai anche in Champions League, per cui finisce che il Real Madrid o il Manchester o insomma queste squadre mitiche che una volta bastava incrociare ogni 5-10 anni e scattava l'evento automaticamente, invece adesso c'è l'inflazione, ma non nasce, ripeto, tanto dalle TV, non diamo tutte le colpe a loro, nasce dalle società, e poi le TV evidentemente sono anzi sollecitate semmai dalle società a prendere i diritti di queste partite e a trasmetterle, dopo sì che scatta il comune interesse, ma con un'iniziativa societaria però quasi sempre. Da Torino Davide, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, e complimenti per la sua trasmissione. Mi scusi se esco un po' fuori tema, ma io ho bisogno di ascoltare un suo consiglio, perché non so più che santo votarmi. Parlo della situazione del Torino, volevo sapere che cosa ne pensa e quali potrebbero essere i suoi consigli per eventuali miglioramenti, perché stiamo andando veramente male. Ma guardi, consigli lasciamoli stare. La situazione, insomma, è abbastanza ridicola, pare il mio, nel senso che ormai sono credo che sia il quarto anno di questa gestione di un presidente che, come diceva il grande Enzo Biagi a proposito di un altro personaggio, come dire, fasso tutto mi, diceva: se avesse le tette, che aveva scritto una volta Biagi, farebbe anche l'annunciatrice. Ecco, io credo che Cairo sia nella stessissima condizione psicologica, nel senso che è il suo fasso tutto mi, credo, il limite, non ha mai delegato nulla, si è sempre solo circondato in questi anni di yes men, di persone comunque che la secondassero in maniera totale. La sua smania di protagonismo è evidente, è arrivato a proclamare dei silenzi stampa pur di avere lui tutte le telecamere a disposizione, casomai gliene mancasse qualcuna. Insomma, questo in forza del fatto di aver salvato il Torino, che poi è una... È una vecchia storia, non ha salvato nulla, ha preso il Torino dal fallimento come tanti altri dirigenti d'altra parte hanno fatto in giro per l'Italia. Quelli che salvano le società sono quelli che riprendono pieno di debiti e poi rischiano quello che c'è da rischiare. Quelli che invece aspettano che i libri vadano in tribunale, che una società per quanto gloriosa fallisca e poi dopo la salvano, beh, insomma, più che un'opera buona fanno un affare, a me risulta. Marco dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Senti, io volevo intervenire in relazione alla discussione che ho poco fa ascoltato riguardo ai tempi di recupero degli sportivi dopo traumi. Sì. Io sono un tecnico del settore, sono un fisioterapista riabilitatore. Secondo me i tempi si vanno accorciando nei recuperi, non allungando. Lavoro da tanti anni e dall'anno e più del recupero del crociato siamo passati ai 4 mesi e mezzo. Pronto? Sì, pronto, certo. Capisce? No, capisco, ma non cioè, i tempi di recupero sono una gran bella cosa. È il numero degli infortuni, però, che quello sì, quello dipende da tanti altri fattori, dalla velocità di gioco. Ma infatti è quello di cui si parlava oggi. Poi una prestazione più esasperata rispetto ad anni fa, però i tempi di recupero son dimezzati. E questo è positivo, questo significa che no, non potrebbe essere diversamente, la scienza va avanti per fortuna e va avanti in tutte le discipline, quindi anche in questa. Mi sembra solo, non dico fuori tema, ma mi sembra solo un'osservazione che c'entra poi relativamente con quanto diceva il dottor Volpi. E soprattutto con quanto gli ho proposto io oggi, perché non è tanto se si guarisca prima o dopo oggi, è quanti infortuni in più ci sono nel calcio di oggi rispetto a quello di un tempo e quanto più gravi siano, tutto sommato. E su questo mi pare che Volpi si sia esercitato a rispondere. È il momento, come sempre, dell'appuntamento con il ripasso di storia sportiva. Che cosa è accaduto l'11 dicembre? Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 dicembre 1981. A Nassau, isole Bahamas, cala il sipario sulla carriera di Mohamed Ali. L'ex Cassius Clay, 41 anni, viene sconfitto ai punti dopo 10 riprese dal 26enne Trevor Berbick, pugile giamaicano naturalizzato canadese. In 20 anni di professionismo, Ali ha disputato 61 match, vincendone 56, 37 dei quali per KO. 5 anni dopo aver sconfitto Ali, Berbick incrocerà i guantoni con un'altra leggenda. Infatti, sarà proprio travolgendo Berbick con un KO tecnico alla seconda ripresa che il 21enne Mike Tyson conquisterà la sua prima cintura mondiale dei pesi massimi, il 22 novembre del 1986. Tocca ad Armando da Pisa, buongiorno. Buongiorno, da Pisa, nel senso che sono di passaggio da Pisa, sono sì. Di Grosseto. Sì. Allora, per intervenire sulla frequenza e sulla gravità degli infortuni. Ascoltando il dottor Volpi, da ex diciamo giocatore ovviamente a livello dilettantistico, mi ritrovo perfettamente in quello che lui dice. Volevo aggiungere un punto però, magari avere un suo parere a riguardo. Un punto che secondo me incide molto, che è questo: l'accorciamento del modulo sicuramente velocità di esecuzione del calcio di oggi, secondo me ha un grande impatto su due aspetti, sia sull'autoinfortunio che quella sull'infortunio indotto dall'avversario. Cioè, io mi ricordo, avendo giocato, io ho 47 anni, l'infortunio era più indotto, erano molto più frequenti gli infortuni indotti da impatto di altri giocatori piuttosto che l'autoinfortunio, perché il calcio era banalmente più prevedibile, forse più bello ma più prevedibile. Oggi credo che esista molto a livello di modulo, l'accorciamento delle squadre, il pressing eccetera, quella grande dose di imprevedibilità che sia da un punto di vista di impatti sia da un punto di vista di autoinfortunio, cioè di posizioni e di movimenti non perfettamente propri. Propri, secondo me questo aumenta molto l'incidenza degli infortuni. Sì, sì. Volevo avere un parere a riguardo. Il parere è che lei, io sono completamente d'accordo con lei. Innanzitutto, appunto, un'occasione, cioè occasioni molto, ma molto più numerose di impatti, perché l'ha detto bene: le squadre sono molto più corte, i cacciatori sono molto più veloci, quindi l'occasione di impatti è nettamente più alta da questo punto di vista. E poi il fatto che la seconda parte, insomma, la sua seconda disamina si ricollega alla prima fatta da Volpi, cioè al fatto che questi motori comunque si fanno male anche da soli, cioè rompono anche da soli. Perché? Ma perché sono tirati oltre il limite, e soprattutto il motore ha un numero di giri che il telaio di quella macchina non riesce a sopportare, e quindi è tutto vero quello che dice. Da qui l'idea, da qui il domandarsi perché, insomma, avere queste rose pletoriche, avere con tutti poi i problemi di gestione che comportano, quando forse basterebbe ridurre un po' il numero di partite, ma un po', senza nemmeno poi esagerare, comunque, insomma, disintossicare un tantinello il calendario, avere meno giocatori in rosa, ma avere dei giocatori più allenati. Probabilmente vedere anche a quel punto uno spettacolo migliore. È un discorso lungo, complesso, che oggi abbiamo affrontato soltanto da un punto di vista, ma nemmeno sanitario, proprio traumatico. Paolo Mestre, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Complimenti per la sua trasmissione. No, praticamente ha già risposto alla mia domanda, perché io appunto, ho giocato anch'io a calcio dilettantistico, non riesco a capire il fatto di avere 28 giocatori in una rosa, però se andiamo a fare alla fine dell'annata calcistica, sono sempre quei 17-18 che giocano con continuità. Dico, gli altri 10 cosa servono alla fine? Cioè vengono, è gente che viene pagata sui soldi di quattrini. Io penso che tanti infortuni possono essere questa la causa. Cioè, se alla fine di 28 giocatori, 30 che ne ho in rosa, ne alla fine dispongo sempre di soliti 18 o 20 per esigenze di società, perché per forza bisogna vincere, bisogna arrivare a determinati traguardi, credo, non so cosa ne pensa lei. Che sia abbastanza inutile tutto questo, ma certo, è un cane che si morde la coda, ma da tanti anni, e mi sembra che se la morda sempre di più, anche perché poi tutto questo nasce dall'illusione che è tipica del post-sacchismo, secondo me, non del sacchismo, ma del post-sacchismo, che è quello che ha fatto i danni peggiori storicamente. Nasce dall'illusione che i calciatori siano pedine, insomma, che siano, non c'è la componente, come dire, artistica dell'atleta in primo piano, ma c'è il suo essere pedina, e quindi da lì nasceva l'idea delle rose allargate, del fatto che se manca uno ne metti un altro e cambia molto poco, e invece cambia, perché se Dio vuole il calcio è fatto per quelli che lo sanno giocare, e non è riproducibile un calciatore, e non è sostituibile un campione. Facciamo l'esempio di Ibrahimovic, no? e di quanto l'Inter di oggi sia dipendente da lui. Poi nel post-sacchismo invece, ripeto, chiunque poteva essere sostituito, poteva giocare il Milan 2 piuttosto che l'Udinese 2 piuttosto che cosa, perché si era deciso, insomma, si pensava a quell'epoca che quello che contava fosse il modulo, fosse lo spartito e non tanto gli interpreti. Da lì è nato tutto, e mi pare che invece non sia così, e non è mai stato seriamente, e mai sarà davvero così. Sentirei questo intervento di Lippi, preso da Sky, a proposito di Gattuso e delle sue serie disavventure. Lui è un giocatore, è un campione con la C maiuscola, come dicevamo prima, perché è un di grande positività sul campo, e è un trascinatore dal punto di vista psicologico. È uno dei giocatori ai quali mi riferivo prima, che sono un esempio importantissimo per i giovani che stanno inserendosi adesso, perciò sotto quel profilo fortunatamente potrebbe non mancare nei momenti decisivi, nei momenti importanti, tipo potrebbe essere pronto per esempio per la Confederation Cup che si terrà a giugno, perché non dimenticatevi che Rino è uno che, se per uno gli ci vuole un mese, a lui gli ci vuole 15 giorni per guarire, se a un altro la prassi normale è 5 mesi, state tranquilli che lui ce ne metterà 4. Credo che sia un modo per far coraggio a Gattuso, che è sempre stata una pedina molto ma molto importante, spesso decisiva anche in nazionale. Messaggio Alessandro da Padova a proposito del vantaggio di giocare prima la partita in trasferta. Dice: lei dimentica un altro vantaggio, perché vince il girone, più soldi. Anche questo è vero, perché c'è una tariffa precisa appunto per la Champions, e dunque anche per il girone di qualificazione, per cui più punti fai e più quattrini incassi, così come più turni superi e più soldi porti alla società. Da Modena, Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Io volevo parlare relativamente alla pausa invernale, che ad esempio in Inghilterra si parlava che non viene fatta. Ecco, secondo me è soprattutto relativo al clima, nel senso, in Inghilterra non si vede come in Italia neve, nebbie o geli come può essere a Torino o Milano. C'è un clima piovoso, però sicuramente con una temperatura più accettabile d'inverno, quindi io lo giustifico anche in quel senso lì, perché sicuramente se si potesse giocare in Italia notturna a gennaio, come sarebbe bello farlo, però ecco, io come spettatore non ci vado a San Siro, a Torino, a vedere una partita con un gelo, insomma. In Inghilterra magari ci andrei. Ma difatti io la penso come lei, poi altri invece la pensano in maniera molto diversa. Io credo che la sosta invernale in Italia, certo l'Italia è lunga, perché se parliamo di longitudine è proprio lunga, e quindi è ovvio che i discorsi che facciamo per il nord Italia non valgono per la Sicilia, e la Sicilia ormai è tornata a essere seriamente rappresentata in Serie A, però insomma, facendo una media, grosso modo, in ogni caso storicamente la massima concentrazione di squadre di alto livello è al nord, di squadre di Serie A è al nord o è al centro-nord comunque, e quindi quello è più o meno il parametro climatico da prendere in esame. Io farei una sosta invernale anche più lunga, poi farei una sosta estiva altrettanto lunga quanto è adesso, e quindi in altre parole ridurrei questo povero campionato che ha 20 squadre rispetto a quando era a 18, ma soprattutto a quando era a 16, è un campionato di una noia assolutamente mortale. Tocca a Mariano dalla provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno Gigi, complimenti. Dica. Per la trasmissione. E a proposito di campionato lungo, a proposito di squadre del sud, io sono un tifoso del Catania, abito in provincia di Udine. Volevo chiederle il suo parere sulla squadra del Catania, su cosa lei pensa di questa squadra, se può salvarsi, soprattutto le tre indiziate, anche se un po' presto, alla retrocessione. Grazie, saluti. Il Catania ha fatto talmente tanti punti che insomma, dovrebbe metterci del suo, credo, per retrocedere, visto che ha il doppio dei punti di chi sta lottando. Il doppio è tanto, perché avere oggi 10-12 punti di vantaggio sulla zona B, quando nemmeno è finito il giro d'andata, è molto. Quindi credo proprio che Catania possa non dormire sonni tranquilli, perché questo mai, ma insomma non preoccuparsi, giocare con una certa tranquillità. Le tre indiziate sono tre delle ultime cinque, nel senso che oggi mi pare che si sia scavato un discreto solco in classifica, e che l'unico trade union tra le cinque che si giocheranno la salvezza e il resto del gruppo sia la Sampdoria a 16 punti, ma a parte la partita da recuperare a Roma, non è tanto quello, ma il fatto è che la Sampdoria è lì per una serie di disavventure, ma credo proprio che non c'entri con la lotta per la salvezza. Centrava, e come invece, Filippo Aureggi, che era in regia, centrava Flavio Suardi, che era come sempre in redazione. Grazie a tutti, Giornale Radio.